fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Quando è il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15 e due minuti primi in questo 6 dicembre, è mercoledì 6 dicembre, quindi ci avviciniamo alla fine dell'anno e vi ricordiamo subito che, appunto, come ormai da quasi 20 anni, era il 2000, quindi il 31, a partire dalle 10 di mattina fino a che rimangono le luci, quindi 3, le 4 del pomeriggio, saremo sotto il carcere di Rebibbia. È un appuntamento storico, dare gli auguri di un buon anno di libertà a chi di libertà ne è privato, ed anche ne è privato delle feste che tutti quelli fuori, bene o male, la fanno, festa di fine dell'anno, di passaggio da un anno all'altro. Quindi il 31 ci troveremo sempre in quel posto, è l'incrocio tra via Bartolo Longo e via Maglietti, praticamente dalla Tiburtina prendete via Casal di Pazzi, quando si vede il grosso complesso di Rebibbia, via Casal di Pazzi che sale su, la prima traversa di via Casal di Pazzi quando fa la curva è via Bartolo Longo, che arriva proprio in faccia al carcere, alle mura del carcere. Si vedono le mura, si vede la torretta, quello è l'incrocio. Sulla destra c'è via Raffaele Maglietti che riporta sulla Tiburtina, però quella è una strada chiusa ad uso soltanto della polizia penitenziaria. Quindi in quel posto lì ci troviamo, metteremo banchetti, dibattiti, faremo diffusione di materiale, insomma, e soprattutto un po' di musica, anche per, appunto, salutare chi sta dall'altra parte del muro. È un'iniziativa questa che portiamo avanti, appunto, da quasi 20 anni, e molto apprezzata da chi sta dentro, chiaramente, perché in quei giorni, sapendo che alle 11 si spengono le luci in un carcere normalmente, anche quando è il 31 dicembre e si va a dormire, mentre fuori la città anche con un tozzo di pane in mano festeggia, insomma è un po' triste, per cui dargli questo aiuto, questo saluto è un buono. Tra l'altro in molte città, un tempo si era nei primi anni del secolo nuovo, del 2000, questa iniziativa della presenza sotto le carceri, soprattutto nei giorni così del 31, si stava diffondendo praticamente in molte carceri di molte città, c'era questa iniziativa. Poi le cose si sono un po' scemate, perché bisogna dirlo, è triste, ma bisogna dirlo, è inutile fingere, noi la finzione non ci è mai piaciuta, perché l'attenzione per il carcere sta anch'essa scemando paurosamente nel movimento, ma non è un richiamo soltanto di carattere morale, dice, ma come mai le compagne e i compagni non si interessano del carcere di coloro, loro fratelli, compagni di lotta che stanno, o anche semplicemente proletari che stanno al di là delle mura. Non è solo quello, è che non occupandosi del carcere, non interessarsi di ciò che la repressione fa, e il carcere è un po' il punto centrale della repressione, no? Quando si dice carcere si intende, si parla della repressione, di che sta succedendo, quali sono le tendenze, dove si muove questo serpente velenoso che è appunto la repressione, che vuol dire ridurre all'ordine attuale, all'ordine del profitto, del capitalismo, tutti i movimenti di vita aggregati o anche individuali delle persone. Quindi è una distruzione della vita, la repressione, la distruzione della novità, di ciò che di nuovo porta l'attività delle persone in genere collettiva. Ebbene, quindi questa cosa è molto interessante, speriamo che siamo sicuri di vedere tutti voi il 31 dicembre alle 10 sotto il carcere di Bibbia lì a via Bartolo Longo, angolo via Raffaele Maglietti. Vediamo allora, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno. Questa trasmissione la conta avrà anche ancora un'altra puntata prima della fine dell'anno, e poi ci saluteremo il 31 appunto sotto le mura di Re Bibbia. Vediamo intanto i dati preoccupanti di quello che i numeri che sta succedendo nelle carceri. Questi sono i dati del Ministero al 30 novembre, quindi qualche giorno fa. Al 30 novembre la capienza è arrivata, cioè la presenza, il numero delle presenze delle persone incarcerate è arrivata a 58.115. Vedete come cresce. Quest'anno è partito dai 54.000, è arrivato a 58.000, e questo 2017 è terribile, si sta avvicinando pericolosamente alla soglia di 60.000. Questo numero qui, 58.000, più o meno 58.000 e qualcosa, era 10 anni fa, nel 2017-2018, si raggiunse in una crescita delle presenze, dopo l'amnistia del 2006, ricordate? Sì, ci fu questa crescita enorme. Allora il presidente del Consiglio di allora, tal Silvio Berlusconi, disse non ci preoccupiamo di questa crescita, un paese come l'Italia dovrebbe avere una media di 100.000-150.000 persone incarcerate, questa è per garantire la sicurezza, questo disse. Poi quando arrestavano i suoi amici si vestiva i panni del garantista, ma questa è la normale finzione che soprattutto in questo paese, nel paese di Pulcinella, avviene molto spesso. Dunque, e allora i governanti non si preoccupavano di questo incremento. Poi quando qualche anno dopo, esattamente nel 2011-2012, si arrivò a toccare la soglia di 60.000, quindi allarme anche perché attualmente la capienza è 50.000, quindi ci sono già 8.000 di più. Allora sui 60.000 la capienza era 45.000, quindi un sovraffollamento spaventoso. Lo Stato italiano ebbe il richiamo dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Ricordiamo sempre, la Corte Europea dei diritti dell'uomo non c'entra niente con la Comunità Europea, sono due cose completamente diverse, e tra l'altro che datano 30 anni di distanza una dall'altra. La Corte Europea dei diritti dell'uomo è stata messa in piedi subito dopo il dopoguerra per garantire una tentativo di omogeneità del rispetto dei diritti umani delle persone carcerate o non carcerate in tutti i paesi europei. L'Unione Europea è tutto un altro percorso, un'altra storia. Questa Corte Europea produsse, appena fondata, una convenzione, cioè una serie di norme ai quali gli stati dovevano attenersi per salvaguardare i diritti delle persone e detenute e anche di quelle libere, sui migranti, sui minori, sui disabili, sui carcerati, è intervenuto su tanti punti. Questa convenzione è stata firmata da tutti gli stati, anche lo Stato italiano l'ha firmata, tutti gli stati l'hanno firmata, nessuno stato ne tiene, la rispetta. Questa è la bellezza, non è solo l'Italia, è la bellezza dei come dire, di questa Europa. Penso che tutti gli stati siano così, anche fuori dell'Europa, però insomma qui siamo, qui parliamo delle nostre vergogne, che sono grosse, alte. Allora, dicevamo 58.511 le presenze a fronte di una capienza di 50.000, quindi 8.000 in più. Di questi 58.100, 2.427 sono donne. Allora, che dire? Allora, vediamo, questi sono quelli in carcere, realmente in carcere. Poi ci sono, in misura alternativa, altre 47.183 persone. Quindi, diciamo, se sommiamo i 58.000 ai 47.000, abbiamo... scusa... abbiamo 105-106.000 persone sottoposte a controllo penale interno ed esterno. 58.000 interno, cioè stanno in carcere, 47.000 controllo penale esterno. Questa cosa non è un'inversione di tendenza, attenzione, però il meccanismo non solo dello Stato italiano, un po' di tutti gli Stati europei, ma anche nordamericani, Canada, Stati Uniti d'America e altri paesi americani, si stavano orientando a modificare il controllo penale prevalentemente interno, cioè carcerato, persone carcerate, al controllo penale esterno, che è molto più efficace nella situazione di oggi delle metropoli, no? Molto piena di gente, e soprattutto dal fatto che dopo tanto tempo ci sono arrivati anche gli organismi di polizia, gli uffici studi delle polizie di tutto il mondo, hanno verificato che le violazioni delle leggi, cioè il cosiddetto reato o crimine, chiamatelo come volete, sempre quello è, non avveniva tanto per impulsi individuali delle persone, no? Come spesso si racconta in televisione, ma erano attività illegali, extralegali, organizzate in territori dove c'è particolarmente difficoltà di vita, povertà, difficoltà di trovare lavoro, miseria. Insomma, tutte queste belle cose qui di cui il mondo si sta diffondendo a piene mani. E quindi sorse, ma questo già da parecchi anni, diciamo da una ventina d'anni, negli anni 80-90, prese piede uno studio attento, fatto anche a New York e anche in Europa, di cui appunto si valutavano queste cose, per cui un sistema carcerario che punta invece sull'individuo e sull'individualizzazione e della pena e del controllo lo ritenevano ormai arcaico, vecchio, non funzionale. Bisognava passare al controllo delle realtà aggregate, sia aggregate sia in vista di aggregazione, cioè sui territori, sugli aggregati sociali, cioè sui quartieri, laddove appunto ci sono talmente di quei tanti di quei problemi che l'insieme di queste comunità può produrre, e in genere produce, attività extralegali per reperire un reddito che in altro modo gli è negato, i livelli di disoccupazione, soprattutto dopo l'aggressione brutale, diciamo, più che fascista, avvenuta un po' in tutti i paesi, quella che viene chiamata, così con un discorso elegante, il liberismo. Il liberismo non è altro che la parola infiocchettata come l'uovo di Pasqua, come i regaletti di Natale si infiocchettano, però se dentro c'è una bomba che esplode il fiocchetto serve a poco. Ecco, il liberismo è così, infiocchettino su un'aggressione capitalistica dei poteri forti, di banche, finanza, imprenditori, grandi imprenditori, alle condizioni di vita della gente, un'aggressione mai vista. Più feroce, questo va detto, più feroce dell'aggressione che a metà del secolo scorso i regimi fascisti dilaganti in Europa, no? Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Romania, eccetera, aggredirono le forze del lavoro, le forze, la realtà proletaria. Questa è stata proprio immonda, indegna, questa aggressione. Pensate che ha ridotto quasi della metà il reddito complessivo della popolazione lavorativa in questi paesi, quindi ha ridotto la povertà, ha fatto aumentare di molto il numero dei poveri, di chi non ha il minimo della sopravvivenza. Non sono cose che dico io, sono i dati dell'OCSE, i dati dell'Istat, no? 4 milioni e mezzo di poveri in Italia, 4 milioni e mezzo non è una cifra da niente, sono cifre da che una volta si attribuivano ai paesi cosiddetti del terzo mondo o sottosviluppati, termine brutto, però in cui si intendevano quei paesi a basso indice di industrializzazione, di tecnologia, quindi veramente che venivano soltanto rapinati dai grossi paesi delle materie prime. Ecco, oggi in Italia 4 milioni e mezzo, poi ve ne sono un'altra fascia di 2-3 milioni che stanno a livelli così sulla soglia della sopravvivenza. Questo ha fatto l'aggressione cosiddetta neoliberista, ma sarebbe bene meglio chiamarla fascista, nazista, veramente un'aggressione tremenda. Questa aggressione non ha cambiato segno all'andamento della repressione, che continua a tendere sugli aggregati sociali, cioè sui territori, o comunque sugli aggregati sociali, dovunque stanno in genere sui territori, che non sull'individuo. Però per dare, intanto perché è impoverita, quindi l'aumento, diciamo, di alcuni, soprattutto dei reati contro il patrimonio, che sono gli unici in aumento, perché per campare qualcosa da fare, ma soprattutto perché si stanno creando in tutti i paesi, non è solo un fatto italiano, ma anzi nei paesi, ad esempio in Inghilterra, nel Regno Unito, in Francia, in molti paesi, in Spagna, molto diffusa la creazione di bande di giovani, perché la disoccupazione, come sapete tutti, 40% della disoccupazione giovanile colpisce prevalentemente le fasce giovanili, e quindi si creano delle bande, dei gruppi di ragazzi e ragazze giovani che fanno attività di questo tipo, piccole rapine ai supermercati, furti, rapine, chiamatele come volete, la differenza è solo di carattere giuridico, cioè prendono roba, ecco, usiamo questo termine, prendono roba dai supermercati sia per sfamarsi sia per rivenderla e mettere su un minimo reddito, e anche altre attività, appunto, così portano via laddove è possibile generi da vendere. Questa è la realtà. Quindi il carcere continua a dare le sue staffilate, come avete visto continua ad aumentare, non è solo un dato italiano, è prevalentemente europeo, anche se la tendenza, e va detto perché bisogna stare attenti a non scambiare un andamento di questa fase, di questi anni, per una tendenza. La tendenza porta allo svuotamento graduale del carcere e un aumento tremendo, massiccio, fortissimo del controllo territoriale. Come avete visto, il decreto Minniti l'avrete letto tutti, noi l'avevamo previsto da 4 anni fa, chi ascolta questa trasmissione lo ricorda, poi abbiamo scritto pure materiale eccetera in assemblee di movimento, abbiamo detto molte volte che sarebbe stato quello l'esito, il DASP urbano, no? La guerra alla povertà, la guerra al vagabondaggio, ma soprattutto con meccanismi di introduzione della pericolosità sociale, quindi di quell'elemento che caratterizza le persone, da sottoporre a controllo, anche se non hanno fatto ancora niente, perché potrebbero essere in procinto di realizzare qualche cosa. Questo è l'andamento. Ora, qui però c'è un aumento della carcerazione. Allora, qualcuno di voi dirà: come si spiega? Si spiega semplicemente con questo: in Italia siamo prevalentemente quasi sempre in clima elettorale. Adesso infatti c'è il clima elettorale, voi avete visto, c'è il clima elettorale, allora si mette da parte lo ius soli, perché dice ma può darsi che la gente non lo capisce, perché le ideologie proprio degli imbecilli, quelli di dire che bisogna bloccare l'immigrazione perché toglie il lavoro agli italiani, questa è una delle più grandi stupidaggini mai dette, purtroppo però fatta propria da grandi settori stupidi della popolazione italiana, perché ve ne sono tanti e basta vedere i risultati elettorali, quindi non è da fare i razzisti, dire i nostri sono più bravi gli altri, no, in tutti i paesi dappertutto ci stanno i cretini, i deficienti, quelli un po' più, e le persone che ragionano e che sono in grado di muoversi per difendere i propri interessi e andare anche avanti. Questo è un dato, però appunto la tendenza rimane quella. Cos'è che in America, dove questa tendenza ha preso corpo qualche tempo prima che in Europa, già sono stati diminuiti i livelli di carcerazione, erano arrivati a 2,5 milioni. Negli Stati Uniti d'America avevano il record della carcerazione, non solo in quantità numerica, ma anche in percentuale rispetto alla popolazione. più della Cina, più di tutti i paesi, più di tutti i paesi. E adesso sta diminuendo, non per una scelta di carattere morale o ideale, ma semplicemente perché costa troppo il carcere e perché non garantisce quel controllo territoriale che invece si ha con la repressione territoriale, con quello che noi chiamiamo il DASPO urbano, che qui da noi il decreto Minniti ha nominato il DASPO urbano. Il problema è che per fare il controllo territoriale è necessario l'addestramento di forze di polizia che sappiano muoversi sul territorio, di forze di intelligence, perché sul territorio non è che basta che metti a volante che va su e giù, come si fa ancora nelle periferie italiane, a volante che va su e giù con atteggiamenti così di no, aggressivi. Se vede un gruppo di ragazzi sul muretto che chiacchierano tra di loro, ma lì li perquisisce, cerca, dice voi c'avete la droga, tutte li malmena, non serve a niente quello, non è quello il controllo territoriale. Poi si continuerà a fare pure quello, perché le forze di polizia questa roba qui sono, però non è quello. Il controllo territoriale è un discorso che va fatto seriamente e appunto va fatto individuando le realtà territoriali più disponibili, per tanti motivi, in primo luogo quello materiale, cioè la mancanza di reddito, di aggregarsi per attività extralegali, per reperimento di reddito. E allora, quindi abbiamo questo aumento. Poi in Italia, appunto, chi produce carcere, sapete, ha voti, perché la gente pensa che il carcere difende la propria proprietà, anche se la proprietà si riduce a una macchina sgangherata, sfasciata o a quattro cose che si ha negli appartamenti. E questo è tutto un problema ideologico, elettorale, e in realtà i reati, come abbiamo detto più volte, ma i dati sempre del Ministero della Giustizia ci dicono che sono in netto calo, soprattutto quelli gravi, gli omicidi sono in netto calo, stanno scendendo per fortuna duramente, molto, qua negli ultimi 10 anni sono dimezzati, quindi molto forte, le aggressioni alle persone pure molto, molto diminuite. L'unico elemento che ancora non scende sono le violenze sessuali, le violenze contro le donne, che quelle invece, essendo, come dire, la violenza contro le donne, la violenza maschile contro le donne, sta dentro la cultura purtroppo condivisa da gran parte, la cultura fondante di questo paese. Basta vedere le canzoni, gli scritti, gran parte della letteratura, quella stracciona, i giornali, non ne parliamo, la televisione, lasciamo stare. Ecco, sono impregnate di cultura maschilista e sessista, quindi che produce diciamo l'atteggiamento violento nei confronti delle donne. Quindi bisogna scrollarsi questa cultura. Un modo anche di fare, l'Italia è uno dei paesi che purtroppo che è al primo posto in quanto il salario a parità di lavoro delle donne è ridotto di un terzo rispetto a quello maschile, quindi una cosa abbastanza spaventosa. Vabbè, questa è la realtà. Comunque i reati sono in diminuzione, quelli altri, tutti gli altri a parte quelli della violenza sulle donne sono in diminuzione, ma i carcerati aumentano. Ma i carceri, chi sono queste 58.115 persone incarcerate? Sono persone che hanno reati che, come dicono, come li chiamano gli avvocati, bacatellari, cioè bacatelle, termine che si usa anche, bacatelle, cioè piccoli reati contro il patrimonio sono prevalentemente, o ancora il piccolo spaccio delle sostanze stupefacenti, che se le legalizzassero sarebbe avrebbero risolto il problema. Sono tutte persone che hanno da fare poco, 2-3 anni di galera, che secondo le leggi non dovrebbero stare in carcere ma andare in misura alternativa. Questo dicono le leggi, ma le leggi, sapete un detto molto bello che dovrebbero scrivere su tutti i muri della città: la legge, quando è a favore delle persone carcerate, si ferma alle porte del carcere. Le leggi buone non entrano mai in carcere, nessuna legge è mai entrata in carcere, quelle a favore dei detenuti. Cioè, questi muri impediscono, oltre che la comunicazione e la libertà, impediscono anche che entrino le leggi a favore dei detenuti. Non sono mai entrate, mai entreranno, perché il carcere è quello, il carcere deve intimorire, deve far male, è bigliacco, è terrorista, è assassino, il carcere questo è. E non può quindi essere umanizzato, questa con tutti i chiacchieroni, gli imbecilli di questa terra che vogliono umanizzare il carcere, è un controsenso, è un ossimoro, no? Umanizzare il carcere è come umanizzare le guerre. Immaginate uno che spara con i proiettili di che? Quindi siamo veramente alla follia cretina. Va bene, questo comunque è il dato. Quello che volevo dire è che, e concludiamo questa prima parte, è che appunto mettendo insieme i carcerati, 58.000 e le carcerate e le persone sottoposte a controllo penale esterno, cioè misura alternativa, abbiamo quasi 110.000 persone, un bel numero. Considerate che 70.000, tra 70 e 75.000 ogni anno entrano in carcere e altrettante ne escono, perché altrimenti, no, le presenze in carcere esploderebbero. Quindi ogni anno abbiamo dai 70-80.000 persone che escono dal carcere e vengono in mezzo a noi. Quindi immaginate ogni anno, quindi significano che in 10 anni sono 7-8.000, in 20 anni 16.000 e così via. Pensate quanta gente sta in mezzo a noi che porta, a volte lo nasconde, questo è un errore, perché bisognerebbe raccontare le proprie esperienze, anche quelle brutte, come il carcere. Però quanta gente in mezzo a noi porta dentro un po' nascosto il marchio della galera. Vabbè, volevo dire che di queste... l'ultimo dato di queste persone in carcere, 58.115, ben 10.000 sono ancora in attesa del primo grado di giudizio, quindi soltanto imputate 10.000 persone, e altre condannate non definitive sono altre 10.239 tra appellanti, ricorrenti e ricorrenti. Quindi i condannati non definitivi, persone che stanno in carcere che non sono definitive, sono in tutto 37.441, che è una cifra altissima, come vedete è molto alta, e questo dato è uno, questo sì, è uno che ci porta alle vette della mantenere in carcere persone non condannate. Mentre sapete tutti, a scuola quando ci fanno recitare la Costituzione, i principi del diritto dicono che la persona finché non è condannata non dovrebbe stare in carcere, sui libri, certo, ma non nella realtà, soprattutto in quelli italiani. Sempre è stato molto alto il numero delle persone non condannate ma che stanno in carcere, oppure condannate in primo grado e non ancora definitive, però già il numero delle soltanto che non hanno nemmeno avuto il primo grado, 10.000, è altissimo. Quindi su questo si sono avute già diverse multe dalla Corte Europea, ce n'è in procinto un'altra perché non cala questo numero, quindi saranno costretti a fare una multa. Non cambia niente, la Corte dei diritti dell'uomo non è che ha nessun potere, dà delle bacchettate, quella non solo all'Italia, all'Inghilterra, le cui carceri fanno quasi più schifo delle nostre, in continuazione bacchettate, pure in Francia, da nessuna parte le carceri sono buone, non è possibile. Le carceri buone sono l'uniche carceri buone, sono quelle degli anni 60 in Norvegia e Svezia, che erano carceri abolite, cioè carceri che non erano più carceri, sciolte, buttate giù, svuotate, e le persone diciamo condannate passavano questo tempo della condanna in lavori socialmente utili, in mezzo alla gente, però facendo delle attività lavorative, muovendosi, erano seguite non tanto dalla polizia, ma da gruppi di cittadini che li seguivano, cercavano di capire perché avevano infranto la legge. Se erano problemi materiali, cioè per esempio mancanza di reddito, dicevano: il problema non è vostro, è del governo, e quindi andiamo a protestare insieme al governo per farvi dare l'indennità di disoccupazione più alta di quello che avete. E questo, purtroppo, questo processo che si chiamava di decarcerizzazione, che ha portato alla fine degli anni 60 in Norvegia meno di 200 persone in carcere, perché erano rimaste soltanto appunto le persone quelle per omicidio, che gradualmente anche loro sarebbero usciti. Poi è venuto fuori l'ondata della droga, che ha rimbambito le persone, non tanto perché la droga veramente uccide, ha massacrato menti, cioè, ma perché non volendo discutere le famiglie di tutto il mondo, non volendo discutere perché i giovani e le giovani si buttavano verso la droga in quanto il loro malessere chiedeva una scossa, chiedeva qualcosa, ma hanno detto che la colpa era degli spacciatori, per cui i loro figli si drogavano. È chiaro che è cambiato tutto, e allora invece del buon senso, dell'intelligenza, si è scelta la strada della imbecillità, della stupidità, della nevrosi, e si sono cominciati a incarcerare gente non facendo altro che aumentando il numero dei tossicodipendenti, perché la droga è entrata in carcere. In carcere, le lettere che ci arrivano anche qui, arrivano dappertutto, ti dicono che in carcere l'unica cosa che trovi facilmente è la droga, la paghi un po' di più, ma c'è, ce n'è quanta ne vuoi. Bene, finiamo qui. C'è anche in calo, sono gli stranieri in carcere, che attualmente sono 19.900, e comunque il livello è molto alto, sta nella media europea. Allora, torniamo a noi. Sono le 15.33, quasi 34. Nel frattempo, da molte parti si discute, ma non c'è un dibattito serrato sul carcere, sulle sue tendenze, su quello che sta succedendo. Non c'è assolutamente, purtroppo, non c'è tra la gente, non c'è nemmeno tra il movimento, è completamente assente, e quindi si riproducono degli stereotipi, come appunto umanizziamo il carcere, queste baggianate che non vogliono dire niente, anzi sono stupide, non hanno senso. umanizziamo il carcere, cose di questo tipo qua. E molti, sì, quindi al solito c'è il 41 bis che allora, però nessuno coglie, visto che sono appunto più che altro ripetizione di luoghi, di frasi fatte, luoghi comuni, non si va a fondo delle cose. Prendiamo un esempio per tutti: i suicidi. Allora, molti si lamentano del fatto che in Italia sono molto alti i suicidi, non è che nelle altre carceri è molto alto ovunque il numero delle persone che si suicidano. Allora, ci sta da un po' di tempo intervengono su questo fatto dei suicidi in carcere. Molti giornali danno la parola agli psichiatri. Si pensa che gli psichiatri, così si dice, che la psichiatria interviene sulla interviene a leggere il cervello, la psiche delle persone, cosa che io assolutamente non credo, e quindi potrebbe dire perché, pensano alcuni, gli psichiatri vorrebbero dire perché. Già avevamo detto l'altra volta, abbiamo visto che un convegno di psichiatria diceva che coloro che si suicidano in carcere perché la carcerazione fa diventare insani di mente, dementi, termine che insomma, offensivo e che non va usato, non rappresenta niente, e tra l'altro se fosse vero bisognerebbe subito chiudere le carceri, perché è assurdo che uno Stato tenga in piedi delle strumenti che producono malattia mentale. Se fosse vero sarebbero da arrestare tutti, il Ministero della Giustizia, fino all'ultimo secondino, è chiaro, no? Producete malattia mentale? È chiaro, no? Invece non è così, quindi hanno detto una stupidaggine, questi psichiatri ne dicono sempre tante, purtroppo ogni tanto ammazzano le persone col TSO nella loro stupidità. Comunque qui c'è questa settimana un altro intervento, sempre di uno psichiatra, che dice le persone si suicidano in carcere perché il primo impatto con la galera, perché questo psichiatra ha letto i dati, lo sanno pure le bambine e i bambini in scuola elementare, il gran numero dei suicidi avviene nei primi tempi, non l'abbiamo detto, il primo mese, addirittura i primi 10 giorni, il primo mese e i primi 6 mesi, questa è la gran parte dei suicidi, avvengono in quel periodo lì, cioè il primo impatto con la galera. Allora dice perché probabilmente è un po' traumatico, bisognerebbe migliorare e rendere umano l'ingresso delle persone in carcere. Allora io dico: queste persone dove vivono? Come avviene un arresto? Non è difficile fare, non bisogna essere degli avvocati, dei giuristi per sapere come avviene, anche perché basta domandare in giro. Ma comunque, no, come avviene come si va in carcere? Si va, prima c'è l'arresto, cioè una persona viene presa alle 5 di mattina, alle 6 di mattina oppure per strada, impacchettata, chiusa, bloccata dagli agenti di polizia, in quel momento perde tutti i rapporti col sociale che aveva un attimo prima, con gli affetti, con le persone care, con tutto, viene buttata in una cella di sicurezza, quella dei commissariati o delle caserme dei carabinieri. A parte le botte che si prendono, non è quello il dato, ma intanto muore qualcuno, come però non è tanto quello si sa, ci sta. Però il fatto che viene comunque chiusa appunto in una cella di sicurezza, perché le celle dei commissariati o dei carabinieri sono celle singole, celle di sicurezza dove non c'è niente, sta lì perché lì sono di passaggio, dovresti essere portato poi il giorno dopo o rimesso fuori o buttato in carcere. Poi quando vieni portato in carcere, il primo impatto è appunto in isolamento oppure nel settore nuovi giunti. Queste sono prerogative ovvie del carcere. È ovvio che il carcere, essendo carcere, deve operare così, perché quando arriva una persona nuova in carcere dopo essere stata arrestata, il direttore deve decidere, leggendo il suo stato di servizio, cioè chi è, che cosa ha fatto, se era legato a qualche gruppo, no? Per decidere dove mandarlo, perché non può mandare per esempio in un reparto dove ci stanno quelli della banda X, uno della banda Y, perché si scannano. Quindi c'è anche un dato di fatto, non è solo una carogna il direttore, ma è anche obbligato a fare così, deve studiare le carte di questa persona portata in carcere per sapere dove metterlo. E quindi si fa, infatti il settore nuovi giunti è stato costruito proprio per permettere, prima li buttavano in isolamento, però troppo duro, allora si è fatto un settore nuovi giunti che è un reparto, però siccome ci si sta poco, 2-3 giorni al massimo 4, e poi si va nei reparti con gli altri, è chiaro che comunque è quasi sempre vuoto, quindi anche lì sta in isolamento. È un po' meno peggio della cella di isolamento, ma sono delle celle, andatela a visitare, è ovvio non fanno entrare in carcere, però i deputati che hanno questa possibilità potrebbero farsi una passeggiata ai settori nuovi giunti. Sono delle celle abbandonate, tra l'altro sporche, perché non ci sta il detenuto che rimane lì e quindi da un po' si ingegna a tenere pulita la cella. Sono delle celle di isolamento anche quelle, il settore nuovi giunti. E quindi per necessità una persona, l'arresto, cella di sicurezza, isolamento o settore nuovi giunti, prima di andare in sezione passano dei giorni parecchi in cui la persona detenuta vede, soffre, impatta con la parte peggiore del carcere, l'isolamento, la mancanza di socialità, di qualcuno che ti, soprattutto se è il primo arresto, che ti dice ma sì, aspetta, ma si può resistere anche qui, che ti dà a parole di conforto, ti aiuta a capire dove sei capitato, quali sono le regole, perché non te le dice nessuno, no? Cioè, il carcere è questo. Però se queste brave persone dicono bisognerebbe rendere umano l'ingresso in carcere, cioè come dire prego venga, si accomodi, beh, significherebbe abolire il carcere, no? Ecco, allora, visto che dovete far pace col cervello, cari psichiatri, voi, non quelli che curate, perché se dite che una persona prova disagio all'impatto, che è quello che ho raccontato adesso, col carcere, dovete dire bisogna cambiare l'impatto col carcere, quindi bisogna abolire il carcere. Se non dite questo, vuol dire che non avete la possibilità di fare un ragionamento minimo, elementare, semplice. Ecco. Questo per dirla sui suicidi. L'altro discorso del 41 bis, anche questo è morto d'odore Ina, tutto il dibattito, non è vero, non c'è stato dibattito, molto piatto, molto misero, quella era una bestia, una belva, aveva dichiarato guerra allo Stato, quindi lo Stato ha risposto alla guerra come alla guerra, e questo più o meno, che dibattito è? Miseria per la miseria, della miseria. Il problema che poteva essere invece parlare del 41 bis per capire l'essenza del carcere, perché il 41 bis è soltanto la punta dell'iceberg di tutto il sistema carcerario. Che cosa ci dice il 41 bis? Ci dice che il carcere è uno strumento basato sullo scambio. Mettetevi in testa questa parola, lo scambio. Non a caso è nato nel momento in cui si sviluppava il sistema mercantile e subito dopo ha interagito con quello capitalistico, che sono strumenti, modi di produzione e di distribuzione basati sullo scambio. Tu vuoi comprare quella merce? Devi dare un tot di soldi in cambio o portare altre cose. Quindi tu vuoi un salario? Devi dare in cambio la tua forza lavoro. Ecco, è uno scambio. Sono regimi questi attuali, il modo di produzione capitalistico, quello vigente, un po' prima c'era quello mercantilistico, ma più o meno aveva le stesse regole, basate sullo scambio. Il carcere nasce in quel periodo e serve a mantenere l'ordine di quei modi di produzione, di quei regimi sociali. E quindi anch'esso è basato sullo scambio. Che cos'è il 41 bis se non un regime di scambio? Come tutto il resto del carcere, quello però è a livello più alto. Cioè, che cosa dice addirittura la legge? Tu stai in 41 bis, sia in condizioni tremende, o tutte le cose brutte che hanno detto i buoni, no, tutti i buoni del mondo hanno detto tutte le cose brutte che sono il 41 bis, però non hanno messo fuori l'elemento centrale, che è quello che ce lo può fare, che ci può creare i presupposti e ovviamente il conflitto per abolirlo. Quello scambio è basato su che cosa dice la legge dello Stato italiano? Io ti tengo in queste condizioni di tortura finché tu non mi dai altri nomi di persone che io metterò al tuo posto e a te ti levo da qui. Che cos'è quello se non un regime di scambio, galera di scambio? È ovvio, ci si è tanti spaventati per il voto di scambio, ricordate? È ovvio che c'è il voto di scambio, ma c'è anche la galera di scambio, voluta e addirittura ratificata, se volete che dico il termine, santificata dalle leggi del carcere di scambio. tu stai in carcere ostativo, prendi l'ergastolo ostativo, che significa che uscire dal carcere soltanto in cassa da morto. Bene, se vuoi uscire prima devi dare in cambio dei nomi che metterò, che dice lo Stato, io metterò al tuo posto e tu esci come l'ergastolo normale, cioè dopo 26 anni di carcere potrai uscire o comunque potrai iniziare le pratiche per l'uscita. Il 41 bis è questo: tu mi dai il nome di qualcuno che io metterò qui e io ti faccio uscire. Si tratta di galera di scambio, di non altro. Però tutto il carcere funziona così, perché tutte le leggi italiane esaltano il pentimento. Tu qualunque cosa fai, dal furto all'omicidio, se ti penti e dici amaramente, ma non a chiacchiere, no? Come si usava nei regimi teocratici che sono stati in tutte le parti del mondo, ovviamente anche qui, e dove tu dicevi non farò più questo, non solo dicevi che non farei più quello che hai fatto, ma che il regime contro tutti, se tu ti sei opposto violando la legge, in realtà è il migliore del mondo. Quindi tu devi dire, devi esaltare questo sistema, è il migliore del mondo, il più perfetto, il più buono, io da cattivo l'ho infranto. Quindi ti cominci a fustigare, a sputare in faccia, a dire cose brutte, dirò a tutti che bisogna rispettare queste leggi perché sono le migliori del mondo, questa società è la migliore mai esistita, e brivim brivim. Ecco, questa baggianata qui, ovviamente se dici queste stupidaggini avrai degli sconti notevoli. Anche questo è uno scambio, no? Tu dai via la tua identità in cambio, cioè ti strisci per terra, fai il serpente in cambio di sconti di pena, e così tutto il resto. Anche gli sconti di pena sono basati comunque gli sconti di pena regolari, cioè i 3 mesi ogni anno di buona condotta. Buona condotta significa che devi avere dal carceriere, cioè dalle guardie, e poi confermato dal direttore, lo psicologo, tutti quanti, educatore eccetera, della attestati di buona condotta, cioè questo carcerato, questa carcerata si comporta secondo le regole vigenti, quindi ha accettato il carcere, quindi ha accettato la punizione giusta perché ha ritenuto sbagliato quello che ha fatto. Questo anche è scambio, e con quello ti prendi ogni anno 3 mesi di sconto. È lo scambio per eccellenza, è esattamente lo scambio che c'è al supermercato, dove la commessa e il commessa stanno lì 8 ore al giorno, anche 9-10, in cambio di un salario, dando la loro vita in cambio di 4 soldi. Così quello che va a comprare qualcosa dà i soldi ottenuti sempre vendendo la propria forza lavoro in cambio di un po' di merito. È un regime, questa è l'essenza del 41 bis, una tortura in cambio. Che cos'è la tortura? E qui arriviamo alla critica che molti dicono, anche l'ONU ha criticato la legge fatta, ma tutti l'hanno criticata, perfino coloro che hanno steso l'articolo di legge, la legge sulla tortura, che poi è stata approvata nel luglio scorso, mi pare il 3 luglio, bene, scritta da alcuni personaggi, in cui c'era Luigi Manconi, il senatore Luigi Manconi e altri, hanno scritto questa legge che rispecchiava quello che era, diciamo, la declaratoria dell'ONU sulla tortura. Cioè è tortura tutte le, no, le aggressioni fisiche o anche psiche volte a ottenere informazioni, questo è il punto, fatto dalle forze dell'ordine, questa è l'essenza, insomma. Loro hanno tolto, nei passaggi tra Camera e Senato hanno tolto tutto, e coloro che hanno scritto il primo testo, cioè Manconi e altri, non hanno votato a favore, hanno votato contro questa legge, perché dice ha tradito completamente, è stata snaturata, non è una legge contro la tortura. Infatti bisogna reiterare la tortura, bisogna che ci siano dei segni permanenti, cioè se ti spezzano un braccio e poi questo guarisce non è tortura, se rimani senza braccio allora è tortura. Pensate un po', vabbè, questo per dire, quindi non è così, è già stata criticata, ma dagli stessi firmatari e anche ovviamente da un po' da parte dell'opinione pubblica, quella minimamente attenta a queste cose, che poi ogni 3 mesi alcune commissioni internazionali dicano che in Italia fa schifo questa legge, perché non pare che l'articolo 663 del codice penale è diventato un articolo di legge, non serve a niente, infatti non arresterà nessuno. D'accordo, ma ormai è vecchia perché c'è stata una potente critica, ho detto, perfino di coloro che hanno scritto questa proposta di legge snaturata tra Camera e Senato, e quindi allora bisognava fare qualcosa se si voleva mettere in moto, prendere la palla al balzo, mettere in moto un movimento contro il 41 bis, ma non c'è nel movimento una voglia di conflitto su questo terreno, su nessun terreno riguardante carcere e repressione. Difatti il controllo territoriale, il famoso decreto Minniti, è passato come fosse un come dire quando scivola l'olio, no? Andà giù senza, no? Non c'è stata opposizione, non c'è stata un conflitto, una scesa in piazza. Guardate quello chiamato il decreto Minniti, che tra l'altro è stato costruito in 20 anni di lavoro, di studi su quel terreno che diceva all'inizio, cioè di spostare l'attenzione non tanto sulla deviazione individuale, ma sulla territorialità della costruzione di aggregati volti a pratiche extralegali. Quindi cambia completamente il volto della repressione. Quello che poi appunto il Daspo Urbano, ma addirittura per i writer, ricordate, ne abbiamo discusso, è inutile tornarci, però se quella critica al decreto Minniti non diventa manifestazione, si pensava, dopo tutto ciò che è stato scritto quest'estate su un punto del decreto Minniti eccetera eccetera, e anche sulle reati di tortura, che all'inizio dell'autunno, cioè settembre-ottobre, ci sarebbe stato un conflitto, un movimento su questo terreno. Non c'è stato niente, silenzio totale, cioè il movimento è completamente assente, si è sciolto rispetto a questi terreni, lascia operare, perché le iniziative della repressione sulla pericolosità sociale che colpisce molti esponenti, molti militanti del movimento, continuano ad andare avanti e non hanno risposta, non trovano risposta, e continuano a falcidiare i livelli di attività, quindi anche di movimento. Hanno azzerato, ma rallentato e diminuito molte pratiche sociali, perché non si ha la forza, il coraggio, la volontà di contrastare questo decreto. Allora, 15:53, cioè abbiamo la chiusura. Sul Fatto Quotidiano dell'altro ieri, il 5 dicembre, ci sta, sono già 2 o 3 volte che il Fatto Quotidiano mette, come dice, la lente in grande su questo fatto successo nel carcere di Poggioreale, Napoli, a Napoli, il vecchio carcere di Napoli. Dunque, c'è stato un pestaggio pesante in questo, nel carcere di Poggioreale, nel 2013, la vigilia di Natale del 2013, in cui le guardie hanno preso un detenuto che stava in sedia a rotelle perché aveva avuto una frattura delle costole, e l'hanno portato nella cella, adesso in giornale la chiamano la cella zero, in realtà si chiama, è sempre stata nelle carceri italiane, si chiama cella liscia perché non c'è niente non ci stanno strutture, cioè non ci sta la branda, non ci sta il water, non ci stanno stipetti, non c'è niente. Si chiama cella liscia, non ha un numero e quindi i giornalisti l'hanno chiamata cella zero, pensando di innovare una cosa che hanno scoperto loro. Non hanno scoperto niente, perché dal tempo immemori, dalla nascita dei carcici, c'è questa cella liscia che non ha un numero, perché di fatto non dovrebbe comparire. Lo sanno solo le guardie e i direttori che ci sta questa cella, ma non risulta nella pianta del carcere. Però si chiama cella liscia, si è sempre chiamata cella liscia, adesso la chiamano cella zero, vabbè. Comunque sia, la vigilia di Natale 2013 questo detenuto è stato massacrato, preso, portato in questa cella, sbattuto con tutta la serie di rotelle contro il muro, quindi fratture eccetera eccetera, sofferenze spaventose, da 12 è già un rappello di guardie, 12 agenti di polizia penitenziaria che poi sono usciti da quella, non fanno più gli agenti di polizia penitenziaria. Il problema è che poiché erano mascherati questi agenti, il disabile colpito, massacrato di botte, non l'ha potuto riconoscere nessuno. Gli hanno fatto vedere, il pubblico ministero gli ha fatto vedere delle fotografie degli agenti in servizio a Poggio Reale in quei giorni, ma avendo avuto a che fare con persone che c'erano il viso, diciamo, nascosto da passamontagna, non è riuscito a individuare nessuno. I compagni di cella di questo disabile, che stava in cella con altri, lì sono arrivate le guardie, se lo sono portato via, hanno detto come è stato preso. Già in cella è cominciato il pestaggio, e poi è continuato. Ovviamente questo stava in sedia a rotelle, quindi non aveva nessuna possibilità, non dico di reagire, ma nemmeno di sottrarsi ai pestaggi. E probabilmente, quindi dice, denuncia appunto il giornale, il Fatto Quotidiano, che probabilmente si sta andando verso la archiviazione di questo, perché passa il tempo e chiaramente si va in prescrizione e il PM non è riuscito a dirigere l'accusa verso degli agenti, dei secondini precisi, perché non c'è il riconoscimento, avevano il volto mascherato, e questo è quello che succede nelle carceri italiane. Un'ultima cosa, l'associazione Antigone, che da sempre la conosciamo, cioè lavoriamo anche insieme, che si occupa di cercare di togliere le strutture del carcere, non è un'associazione abolizionista, perlomeno non lo è nelle sue intenzioni. Difatti opera in rapporto col Ministero di Giustizia, ha delle possibilità di entrare in carcere, fare indagini, inchieste, perché punta al miglioramento delle condizioni delle persone detenute. Se fosse abolizionista non avrebbe queste possibilità, però può darsi che molti di loro, attivisti di Antigone, sono abolizionisti del carcere. Comunque ha detto, sta puntando a far sì che il ministro Orlando metta in moto i decreti delegati che erano contenuti nella legge quadro. Sapete, ci sono delle leggi quadro che dicono che bisognerebbe fare questo tipo di riforme, dando i grossi riferimenti. Dentro questa legge quadro, che viene approvata come una legge effettiva, poi delle commissioni devono produrre dei decreti attuativi di quella legge quadro, e questo era la legge quadro, volgeva ad affrontare il carcere su tre temi fondamentali: 9 regole carcerarie, praticamente rivedere un po' il regolamento carcerario, che l'ultimo è quello del 2000, per modificare e ampliare il sistema di misure alternative. Vedete che ritorna la tendenza con cui operano il Ministero della Giustizia, gli operatori, il DAP eccetera, è quello di sviluppare misure alternative e diminuire la presenza in carcere. Questa è una tendenza, ma ha tante controtendenze: le elezioni, le porcherie che fanno quelli che sapete, l'avete visto, sull'immigrazione, sul carcere, la campagna elettorale dice sono più punitivo io, no, sono io, perché pensano che purtroppo, mi sa che è vero, e così si prendono più voti. Vabbè, a parte questo, insomma, però sta lavorando a queste cose e Orlando ha messo in piedi queste tre commissioni. Una, nuove regole, dicevamo, per carcerare, per rivedere il regolamento carcerario del 2000, per modificare e ampliare il sistema delle misure alternative e renderle più facili, addirittura quasi automatiche, veloci, e per ridurre le misure di sicurezza eccessivamente aspre, anche per introdurre, questo è un fatto, la giustizia riparativa. Questo è tutto, questo riprenderebbe quelle tematiche che dicevo prima sono appartenute negli anni 60 e 70 ai paesi scandinavi, la giustizia riparativa, per cui non si va in carcere ma si entra in un dialogo tra colui che ha offeso e la vittima per riparare il danno fatto. È un meccanismo complesso in cui noi non abbiamo nemmeno la mentalità per affrontarlo, però si può fare. Ecco, Antigone dice sollecitare